Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo la storia perfetta per un programma come questo, perché non raccontiamo solo una vicenda di emancipazione dalla povertà, come ne abbiamo già viste tante, non è neanche solo il racconto di un percorso lineare verso il successo, è la vita di un personaggio il cui volo è stato veramente fatto da vittorie, ascese, cadute, risalite, rivincite magari prese a distanza di decenni. Stiamo parlando di uno sportivo entrato nella storia della boxe, di un campione del mondo dei pesi massimi, uno che ha combattuto con gente come Joe Frazier e come Muhammad Ali, ha vinto, ha perso ed è tornato a vincere. Sto parlando di George Foreman, un racconto che non può che iniziare con il sonoro di un incontro di boxe. Ali, a sneaky right hand, another sneaky right hand, this time he works over the shoulder of Foreman. Questo non è un incontro come un altro, questo è l'incontro, il match di box più famoso della storia, un match sul quale sono stati fatti film, hanno scritto libri e l'audio è quello della sconfitta, la più bruciante per George Foreman, lui che era diventato campione del mondo dei pesi massimi battendo un altro mito, Joe Frazier, ha perso la corona da un altro mito del ring, il rientrante Muhammad Ali, che va a riprendersi il titolo dei pesi massimi in questo incontro che si era svolto nel 74 a Kinshasa, nello Zaire. Ma facciamo un passo indietro intanto. E avviamoci a raccontare una storia che inizia in quell'America del secondo dopoguerra, quella che sta per conoscere il boom economico che regalerà benessere a una buona fetta di popolazione e soprattutto ovviamente quella bianca, il benessere che la famiglia d'origine di George Edward Foreman non conosce. Siamo nel Texas, lui nasce il 10 gennaio del 49 e è uno di quelli che proverà che cosa vuol dire la fame, quella vera e propria, la fame che è comune all'infanzia di tanti pugili, la fame che è un po' il motore di tanti campioni del ring. Una povertà profonda, lui cresce a Houston con la madre, 7 fratelli, il padre naturale lo conoscerà solo da adulto, c'è un padrigno che non c'è e quando c'è è ubriaco, una presenza costante in quella casa è proprio la fame, nonostante gli sforzi della madre, come racconta uno dei fratelli di George, Roy. La mamma è tornata a casa una sera e tutto ciò che aveva era questo hamburger. Ha guardato George. Era un hamburger che lui avrebbe potuto mangiarsi in un sol boccone. Ma lei sapeva che tutti dovevamo ancora mangiare quella sera. Così si è seduta e in un modo o nell'altro ne ha tirato fuori 7 fette. E nel passato comune di molti pugili non c'è solo la fame, ma anche una certa propensione alla violenza. Nel caso di Foreman, la madre, Nancy, che è una donna di chiesa, cerca di coinvolgerlo nelle attività parrocchiali, ma il giovane George, che è detto Little Monkey, cioè scimmietta, non ne ha voglia, ama fare a botte, infilarsi nelle scazzottate tra coetanei, vuole farsi vedere, si mette nei guai, è un po' il solito copione, a tirare i pugni è bravo, il patrigno dice spesso una frase mentre lo accarezza, un po' anche per prenderlo in giro, dice: ecco George Foreman, il futuro campione del mondo di boxe, aveva ragione. E da ragazzino manesco a adolescente violento il passo è breve, si fa coinvolgere nelle risse tra bande di quartiere e a scuola ovviamente va male, si fa eccezione per lo sport. In quegli anni il suo idolo è Jim Brown, che è un famoso campione di football americano, un running back, uno da record, gioca nei Cleveland Browns e lui vuole seguirne l'esempio, pratica anche lui il football con buoni risultati, però questo non basta, tenerlo dietro a un banco scolastico. A 16 anni lascia la high school e la sua strada sembra quella classica, botte, violenza, piccoli reati, con la polizia polizia che gli tiene gli occhi addosso sembra destinato a giungersi a quella schiera di ragazzi di colore del suo quartiere che finiscono dietro alle sbarre. Ma la storia, per fortuna, prende una piega diversa. La sua salvezza si chiama Great Society. We have the opportunity to move not only toward the rich society. Abbiamo l'opportunità di andare verso non solo la società ricca, non solo verso la società potente, ma più in alto, fino alla Great Society. La Great Society si basa sul benessere e sulla libertà per tutti. Richiede la fine della povertà e dell'ingiustizia razziale, obiettivi verso i quali siamo impegnati appieno. Committed in our time. Quello che avete sentito è uno storico discorso del presidente americano Lyndon Johnson, che aveva appena vinto le elezioni del dopo Kennedy e che in qualche modo ne prosegue la via tracciata. È un discorso del 64, lui presenta il suo nuovo progetto politico che chiamerà Great Society, che è una sorta di New Deal, quello di Roosevelt, no? In sostanza è un piano di riforme sociali, di programmi di sostegno all'occupazione. È un piano per combattere la povertà, è un piano rivolto soprattutto alla popolazione nera, anche perché i neri cominciano a pesare dal punto di vista politico, cominciano a votare in massa per uno o per un altro. E comunque questa Great Society è uno di quei programmi che diventa l'ancora di salvezza per molti, tra cui lui, Foreman, probabilmente avviato verso una vita di criminalità. Invece nel 65 entra nei Job Corps, che sono dei lavori socialmente utili, diciamo, varati dal governo per costruire questa grande società immaginata dal presidente Johnson. È un lavoro che porterà Foreman lontano dalla strada, ma non dalle sue cattive abitudini. E troviamo il nostro protagonista di oggi, il grande pugile George Foreman, all'incrocio tra due strade, quella della delinquenza e quella di una vita diversa. Siamo nel 1965 e lui sta lavorando in Oregon, in un'agenzia statale creata nell'ambito del programma Great Society, il programma di Johnson, il presidente che vuole combattere la povertà e l'ingiustizia razziale con lavori socialmente utili. E con Foreman funziona, almeno all'inizio. Lui riprende gli studi interrotti, si specializza in elettronica e cresce il suo livello di istruzione, però il carattere rimane quello e lui ha voglia comunque di fare a botte, rischia più volte l'espulsione dal programma, però nel frattempo finalmente scopre che le botte possono essere un lavoro, scopre la box, inizia a allenarsi e si diploma intanto nei Job Corps. Non gli resta altro da fare che tornare a casa. A Houston, è alla faccia del programma di pari opportunità di Johnson, le cose però a Houston non sono cambiate, perché il Texas è uno degli stati, diciamo, meno inclini all'abbraccio verso il popolo nero e Foreman ricade rapidamente nelle vecchie abitudini, piccoli crimini, risse tra bande, e questa volta arriva un altro uomo che lo salva, è il suo vecchio allenatore Nick Brodaus, è l'uomo che ne aveva intuito il talento già nei Job Corps. Chiamai Nancy, la madre. Le chiesi dove fosse suo figlio. Lei mi rispose che non lo sapeva. Le dissi che volevo tornasse ad allenarsi e che me ne sarei occupato io. Lei mi rispose: grazie a Dio ho trovato qualcuno che si prende cura di mio figlio. Thank God I found somebody that takes interest in my son. E come in tante storie di altri pugili, la box lo salva. Per ora. Ci mette del suo anche l'allenatore, che è convinto che Foreman possa fare molta strada. Lui vuole portarlo alle Olimpiadi del 68, quelle di Città del Messico, e lui comincia la carriera da dilettante, inizia a combattere e a vincere. Il primo incontro lo combatte a San Francisco, siamo nel 67, vince KO alla prima ripresa, ha un fisico imponente, una potenza terrificante, il suo stile si basa su un atteggiamento semplice da spiegare. Picchia con pugni pesantissimi, avanza come un treno costantemente finché le ginocchia dell'avversario non cedono. È abbastanza semplice e i suoi contendenti non durano molto, si fa subito notare Foreman. Vittoria rapidissima, una sequenza impressionante di KO. Vince senza grandi sforzi il campionato nazionale dei dilettanti e i trials, diciamo, della boxe, e conquista un posto alle Olimpiadi messicane. E quelle del 68 in Messico, lo sapete, ne abbiamo già parlato, sono Olimpiadi particolari per tutti, ma anche e soprattutto per gli atleti americani, perché in America, negli Stati Uniti, si vivono i momenti più drammatici della battaglia per i diritti civili dei neri. Prima l'omicidio di Martin Luther King nell'aprile del 68, poi il 5 giugno l'assassino di Bob Kennedy, ormai lanciato verso la presidenza, verso quantomeno la nomination democratica. Sono le Olimpiadi passate alla storia anche per il gesto di protesta di due atleti di colore, ricordate, ne abbiamo già parlato, Smith e Carlos, con il loro guanto nero e il pugno alzato, simbolo dell'adesione al movimento delle Black Panthers. Insomma, c'è un contesto particolare. Foreman si sta facendo strada sul ring olimpico e arriva in finale. E in finale, come nelle migliori sceneggiature, c'è un sovietico, Jonas Kepulis. George pouring it on, and the referee stops the fight in the second round. It's all over. George Foreman wins the gold medal of the 19th Olympiad in Mexico City. Ionis Chipolis. Vittoria al secondo round, KO tecnico. Il sovietico, che ha maggiore esperienza, ma non è Foreman, deve cedere alla potenza dell'americano. E qua c'è un colpo di scena, perché tutti si aspettano in quello scenario un gesto di protesta, un gigante nero che vince il titolo olimpico dei massimi arrivando dalle difficoltà di vita proprio del Texas, quindi di uno stato così particolare, stato nel quale era stato ammazzato 5 anni prima Kennedy. Insomma, tutto concorreva a far pensare a una nuova protesta. Bene, lui rimane sul ring per diversi minuti festeggiando, però sventola la bandiera stelle e strisce, una spinta patriottica, una scelta di campo molto delicata che gli costerà grandi critiche da parte della comunità nera, che lo etichetterà come zio Tom, e lui rimarrà per sempre il nero dell'establishment, e se ne accorgeremo a Kinshasa nell'incontro con Muhammad Ali, ne parleremo più tardi. Tra l'altro c'è da raccontare il fatto che nelle semifinali Foreman incontra un italiano che si chiama Giorgio Bambini. Bambini viene steso al primo pugno da Foreman, gli allenatori gli urlano di rialzarsi e pare che lui abbia risposto: fossi matto, quello mi ammazza. Insomma, il nostro protagonista conquista il soprannome di assassino, non perché sia cattivo, anzi, però i suoi pugni possono veramente uccidere. Il carattere non è quello del killer, ma ha una certa propensione alle botte. Ecco un racconto della prima moglie, Adrienne. Mi sono spaventata quando l'ho visto la prima volta. Ho visto il suo naso e ho pensato che fosse stato rotto. Insomma, aveva un aspetto piuttosto rude, ma non lo era. Era solo un pugile, pensava solo alla box e voleva essere campione dei pesi massimi. Era molto gentile e molto timido, ed era quello che mi piaceva di lui, in realtà. Lui adesso è consapevole di sé, del proprio talento, vuole arrivare in alto e diventa professionista nel 1969. 13 incontri in un anno, più di uno al mese. 11 vittorie per KO, 2 ai punti. C'è un avversario che si chiama Cookie Wallace che resiste 23 secondi. La sua marcia verso la chance di vincere il titolo dura pochi anni. Sono anni costellati da vittorie, da avversari che non stanno in piedi se non per poche riprese, di KO spettacolari. Alla fine del 71, con 32 incontri vinti su 32, è ufficialmente il candidato al titolo mondiale dei massimi, però dovrà aspettare ancora un anno prima di incrociare i guantoni con una leggenda dello sport, perché era un periodo di leggende quello. Il pugile considerato forse il più forte di tutti i tempi, Joe Frazier, è uno scontro tra titani, uno scontro che farà parlare il mondo. Stiamo raccontando la storia di George Foreman, E non è il solito racconto del pugile venuto dalla povertà che combatte, vince e poi trova il declino fatto di miseria e magari diventa solo una voce in qualche almanacco sportivo. Qui stiamo raccontando la storia di un uomo che sì, ha sconfitto la povertà con la box, ma ha avuto un passato difficile, però è la storia di un uomo che ha vissuto almeno 3 vite e che poi è tornato campione del mondo in maniera rocambolesca ben oltre i 40 anni, ma di questo vi parlerò dopo. Intanto noi abbiamo lasciato il nostro protagonista George Foreman alla vigilia del match più importante, titolo mondiale dei massimi in palio. L'avversario è il temibilissimo Joe Frazier. I was still afraid of Joe Frazier. Avevo paura di Joe Frazier. Era Smoking Joe. Voglio dire, quando suonava la campanella, lui usciva dall'angolo sicuro di sé e io sapevo per certo che niente avrebbe potuto fermarlo. Lo colpivi? A lui piaceva. You hit him, he liked it. Molti dicono che il più grande peso massimo della storia sia stato proprio lui, e in quel momento comunque dominava la scena. Era stato campione del mondo da quando Ali, da quando Cassius Clay era diventato Muhammad Ali ed era stato estromesso per le note ragioni politiche, il rifiuto di andare in Vietnam. Però quando Cassius Clay, ormai diventato Muhammad Ali, rientra, si allena, si prepara per punirlo, per batterlo, vince Joe Frazier. E quindi in questo momento Foreman e Frazier sono i due che si devono contendere il titolo mondiale. Siamo a Kingston, in Giamaica, il gennaio del 73. Bene, Foreman vince e vince con una facilità incredibile. Molti definirono l'incontro un pestaggio. Frazier va al tappeto 3 volte nella prima ripresa, poi 3 volte nella seconda, fino allo stop del giudice KO tecnico. E rimane una immagine scolpita nel ricordo degli sportivi, un montante destro di Foreman che solleva letteralmente Frazier da terra facendolo volare e ricadere sul tappeto. Così Foreman è campione del mondo a 24 anni, è un uomo ricco, ma rimane concentrato, determinato. Le prime difese del titolo la dicono lunga. Il primo match dura 55 secondi contro il portoricano José Roman, è l'incontro più breve nella storia dei pesi massimi, ci mette ancora meno di quanto ci metteva Tyson. E poi nel 74 difende la corona contro Ken Norton, che forse ricorderete perché poi diventò attore, fece il film Mandingo. E l'anno prima Norton aveva battuto Muhammad Ali fratturandogli la mascella con un pugno, ma la storia non cambia. Norton arriva a stento al secondo round quando i suoi secondi gettano la spugna per fermare la sua demolizione fisica opera di Foreman. Ormai la stampa prevede anni al vertice per il pugile di Houston, e anche se non lo ama perché il suo carattere è schivo, dicono che sfiori l'arroganza, però sulla sua strada sta per arrivare Muhammad Ali, il ritorno di Muhammad Ali, il Rumble in the Jungle, l'incontro storico svoltosi a Kinshasa in Zaire. È il 30 ottobre del 1974, il dittatore dello Zaire, Mobutu, in cerca di visibilità internazionale, offre ai due contendenti una borsa da 5 milioni di dollari ciascuno per poter disputare un match in terra africana, il primo match in assoluto. È un incontro storico che ha veramente ispirato film, documentari, libri, leggende. Foreman arriva da campione del mondo, ma non è lui l'idolo delle folle locali, perché ve lo ricordate, lui è quello con la bandiera americana in mano, lui è il nero integrato che si è fatto comprare dal sistema. Quello osannato è Muhammad Ali, che dichiara di avere un legame profondo con l'Africa. Lui è il nero che non ci sta, è uno che è andato in galera, ha perso il titolo per evitare di andare a combattere in Vietnam. Quindi Foreman rimane il favorito, ma Ali è l'idolo delle folle. Le cose vanno in una maniera inaspettata. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. Ottava ripresa, ultimi 30 secondi. Foreman ha stretto all'angolo per tutto l'incontro Ali, che però non ha ceduto. All'improvviso Ali esce dalle corde, colpisce con il destro 2 volte e poi una serie di colpi, e Foreman va al tappeto per la prima volta nella sua carriera. E così il giornalista Gianni Minà, amico personale di Cassius Clay, spiega in un articolo la sconfitta di Foreman. Gli incontri importanti si vincono prima di salire sul ring, mi aveva spiegato tante volte Ali. E quell'alba del 30 ottobre del 74, il match cominciò alle 3 del mattino per esigenze televisive, Mohamed fu di parola. Fece sfogare la furia di Foreman sulle proprie braccia, chiuso apparentemente in una guardia passiva. C'erano 40 gradi e un'umidità terribile. Mohamed chiamò quella tattica presa al laccio di un imbecille. Al settimo round, infatti, Foreman era senza fiato e con le braccia basse. E all'ottavo, travolto da una combinazione velocissima, crollava. Foreman non accetta la sconfitta, addirittura dice di essere stato avvelenato prima del match, cade in depressione e tra l'altro scopre che i suoi familiari hanno scommesso contro di lui nell'incontro con Ali. Rimane lontano dal ring per mesi e cerca, diciamo, sollievo in un susseguirsi di avventure sessuali, spende fiumi di dollari per comprare animali esotici, auto di lusso, si racconta che girasse con un sacchetto pieno di soldi che lui annusava per sentire il profumo delle banconote e insomma si avvia quella classica parabola discendente da pugile un po' suonato. Vince ancora quando torna sul ring, però qualcosa si è spezzato perché gli avversari non lo temono più come una volta. Lui colleziona altri KO, batte un ormai discendente Joe Frazier nel 76, poi l'anno successivo arriva una sconfitta durissima. Perde a Porto Rico contro Jimmy Young, che è un pugile poco potente ma molto tecnico, che domina l'incontro. Lui va giù alla 12ª ripresa, si rialza ma perde ai punti. E subito dopo l'incontro lui ha un malore nello spogliatoio, ha una grave ipertermia che lo fa finire in ospedale, ha un'esperienza definita di pre-morte, una specie di coma dal quale si risveglia in piena crisi mistica. Dice di aver sentito la voce di Dio che lo esortava a cambiare vita e a dedicarsi al prossimo, e fa proprio così, annuncia il suo ritiro dalla boxe, inizia a fare il predicatore, diventa nel 79 ministro della Chiesa di Gesù Cristo, va a predicare nelle carceri, alla radio, organizza funzioni battesimali pubbliche, insomma il vecchio George Foreman, quello votato alla demolizione fisica dell'avversario, sembra scomparso nel nulla. E per un decennio Foreman conduce una vita da predicatore, ma non solo, perché visto che i predicatori da quelle parti dell'oceano, del mondo, non predicano la castità, lui si sposa 5 volte in 10 anni, fa molti figli, alla fine saranno 10, e li chiama tutti George. Qui ci sarebbe da ragionare anche in termini di psicanalisi, perché i figli si chiamano George, George, George, George, eccetera, eccetera, e le femmine Georgette. Nell'87 apre il George Foreman Community Center con lo scopo di aiutare i ragazzi difficili come era lui da giovane, e molti li avvia alla box, però pian piano le sue finanze si prosciugano, matura la folle idea di guadagnarsi di nuovo da vivere alla vecchia maniera, tornando a indossare i guantoni. Ho predicato e costruito il mio centro. L'anno scorso un mio amico cominciò a chiedere in giro $400 di cui avevamo bisogno per portare avanti un nostro progetto. La cosa mi imbarazzò. Decisi allora di andarmi a guadagnare i soldi che ci servivano. Il pugilato è una professione onorevole. Mi dissi, vai a guadagnarti qualcosa e rimani in pace. E il progetto di rientro è clamoroso, però ovviamente è anche oggetto di scherno da parte degli addetti ai lavori, che hanno già visto tanti tentativi piuttosto patetici di rientro, soprattutto da parte ovviamente dei pugili. Lui ha 38 anni, si è ritirato 10 anni prima, il fisico non è più quello di una volta, è in sovrappeso, ma lui è deciso, si allena duramente. Torna sul ring nell'87 e combatte per ritrovare la forma ogni 45 giorni. Nel 90, primo incontro importante, batte in 2 riprese Jerry Cooney, diventa di nuovo pretendente al titolo, e nel 91 sul ring di Atlantic City sfida il detentore della corona, Evander Holyfield, ancora con entrambe le orecchie al loro posto. Perde ai punti, passano altri 2 anni per avere una nuova chance. Questa volta l'avversario è Tommy Morrison, la corona è la WBO, ma perde di nuovo ai punti. e questa sembra la sconfitta definitiva, e lui rimane lontano dal ring a lungo. E la boxe però in quel periodo vive, soprattutto nei pesi massimi, uno scenario un po' particolare, perché cominciano a proliferare le sigle, le corone, e poi c'è un altro fatto, che il protagonista indiscusso di quegli anni, Mike Tyson, è in carcere per stupro e anche ovviamente una conseguente crisi di popolarità. Insomma, Foreman viene designato come sfidante ufficiale di Michael Moorer, detentore del titolo IBF e WBA. L'incontro ha luogo a Las Vegas, siamo nel 94. Lui è fermo da un anno e mezzo per l'intero match, subisce la velocità dell'avversario, ma alla decima ripresa trova un varco. È un colpo secco al mento, Moorer va di schianto al tappeto e non si rialza. Better stuff from Foreman. Oh, what a shot! Oh my goodness! Oh, what a shot, dice il telecronista. Che colpo! Moorer va al tappeto e Foreman torna campione del mondo all'età di 45 anni e 9 mesi e diventa il più anziano detentore del titolo di sempre. È un record ancora oggi imbattuto e che non credo verrà mai battuto. Il resto della carriera pugilistica di Foreman è poco da annali e più da folklore, sigle nuove, sconosciute, tutto quello in cui annega un po' la box professionistica di quegli anni. Qualche difesa del titolo, combatte fino al 97, alla soglia dei 50 anni. Negli ultimi due incontri lui batte l'italo-americano Lou Savarese, che non è l'autore di questa puntata, che forse avrebbe anche vinto, ma è un altro, e poi viene sconfitto nell'ultimo match della sua strana e lunga carriera da Shannon Briggs. E qui c'è una diversità anche nella conclusione rispetto a quella di tanti pugili, perché lui non è tornato povero, non è tornato nel quartiere d'origine, non ha sperperato il suo patrimonio, cioè il suo terzo grande patrimonio, e nella sua terza o quarta vita fa l'imprenditore di successo. Negli anni 90 scopre un talento per le televendite, grill per barbecue che riduce i grassi, e il grill per il barbecue in America è un genere di, uno strumento di primissima necessità. Cucina in televisione, diventa l'idolo delle casalinghe a stelle e strisce, a volte si presenta davanti alle telecamere indossando il suo accappatoio da pugile. Vi farà tristezza, forse, e vi farà meno tristezza sapere che il suo patrimonio oggi è stimato in 250 milioni di dollari. Insomma, una vita fatta di ascese, cadute, risalite, cadute sul ring, ma soprattutto avversari caduti per mano sua, le mani potenti e terribili di George Foreman. È una di quelle storie perfette, perché stiamo parlando non di un colpo d'ala, ma di tanti e di tante vite. E ciascuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche riportarsi in alto come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it o venite a cercarmi, a cercarci sui vari Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.